invito a adottare una postura che faciliti la pratica. Quindi una postura che dal punto di vista proprio del corpo ci consenta, sia che siamo seduti sulla sedia, sia che siamo seduti su un banchetto, su un cuscino, di mantenere la spina dorsale eretta ma non rigida, i muscoli rilassati soprattutto del viso, del collo, delle spalle. E sostanzialmente cerchiamo di stare per questo tempo, che sarà circa un quarto d'ora, comodi. Comodi senza però stare a cambiare posizione. Ecco, per esempio, la postura di meditazione, assumere una postura di questo tipo è già un atto che ci colloca al centro di quella rosa dei venti. È già una postura di equanimità. E per esempio, anche rispetto al cambiare posizione, se noi appena abbiamo un micro fastidio, subito cambiamo posizione, in qualche modo, diciamo, rafforziamo questo movimento verso il fuggire le cose spiacevoli e cercare di perseguire quelle piacevoli. Invece, con una volontà di rimanere fermi, grosso modo immobili, senza esagerare, noi anche già assumiamo una postura anche mentale incline all'equanimità. E quindi, come sempre, la postura ha due aspetti che sono sia fisici che mentali. Quindi raccogliamo la mente con l'aiuto dell'attenzione al corpo, alla posizione del corpo, concentrandoci sui punti di appoggio del corpo, sulla sedia, sul banchetto, piedi sul pavimento. E concentrandoci anche sul respiro, sul movimento nel corpo. Aiutiamo la mente a raccogliersi nella sua dispersione, per esserci qui pienamente, completamente concentrati sul respiro e sul corpo. Così come quando stati mentali di agitazione ci inducono una respirazione di un certo tipo, una postura di un certo tipo, ora noi viceversa, con una postura di un certo tipo e una respirazione di un certo tipo, cioè calma, rilassata, induciamo uno stato mentale di calma e di equanimità. E ci immaginiamo al centro di quella rosa dei venti che abbiamo visto. Noi siamo al centro e respiriamo tranquilli, rilassati. E sentiamo che soffia il vento del piacere. Possiamo evocarlo magari con l'immagine di qualcosa che per noi è sinonimo di piacere, piacere fisico. Qualcosa che ci piace da mangiare di buono, contatto con qualcuno. Una cosa bella da vedere. E sentiamo che questo vento si affievolisce e comincia a soffiare il vento del dolore. Possiamo facilitare la sua evocazione pensando a qualche sensazione di dolore fisico che può esserci già capitata. Una malattia, un incidente. Siamo con questa sensazione. E poi questo vento cessa piano piano, mentre noi sempre siamo al centro di questa rosa dei venti, placidi, tranquilli, concentrati sul respiro. Poi sentiamo arrivare il vento del guadagno. Cosa che abbiamo ottenuto. Sensazione ci dà. Siamo felici. Ma questo vento pian piano cessa perché sta arrivando il vento della perdita. La perdita di un oggetto, la perdita di soldi, la perdita di una persona cara. Come stiamo con questo sentimento? E piano piano anche il vento della perdita perde di vigore. Mentre noi rimaniamo concentrati sul corpo, sulla respirazione, al centro. Comincia a soffiare il vento della buona reputazione. La sensazione di sapere che le persone parlano bene di noi. di avere tanti like sui social media. Quanto è bello sentirsi parte ben voluta del gruppo, della comunità. Ma questa bella sensazione prima o poi se ne va, mentre noi siamo sempre lì al centro, a respirare. E sentiamo il vento sgradevole della cattiva reputazione, la gente che parla male di noi. E ci giudica male. Sensazione non deve essere piacevole. Ma anche questa sensazione piano piano si affievolisce. E noi sempre concentrati sul respiro lì al centro, tranquilli. Mentre sentiamo che soffia il vento della lode, qualcuno che apprezza quello che noi facciamo. Che bello. È bellissimo, ma questa sensazione non dura perché questo vento si affievolisce. Ma noi siamo sempre lì, al centro della rosa dei venti. Mentre un leggero vento comincia a soffiare, il vento del biasimo. Veniamo accusati, veniamo rimproverati per qualcosa che non è piaciuto agli altri. Siamo con questa sensazione spiacevole che prima o poi nella vita tutti abbiamo provato. Ma anche il vento del biasimo, il vento del giudizio negativo se ne va. E noi rimaniamo al centro di questo scenario, concentrati sul respiro, con la mente raccolta, respirando.